so che stai usando la radio, quella che è bellissima, che piace a me, che mi hai fatto vedere in fotografia. Bella. Va bene, siete benissimo. Hai già prenotato, beh, non ti buoni in mezzo tu. Ciao Gianni, approfitto, non ti ho salutato prima. Sì. Ma ti ripeto, visto c'è Roberto qua, lo dico, forse l'altra volta non mi ha sentito, io l'altra volta la stavo usando. Poi Roberto un paio di giorni si spostava di canale con Giovanni, con Riccardo, eccetera. E prendo un bel colpi da Roberto D'Antonello, capite? Quindi l'avevo accantonata. Adesso l'ho riattaccata, la riaccendo, la uso perché ce l'ho qua davanti, la uso quando Roberto magari è qua in questo canale, ma se qualcuno si sposta dei miei vicini, tipo Antonello e Roberto, che sono gli unici che ho vicino, o Fabrizio se dovesse fare delle prove in qualche canale, non 10, non lo posso usare perché prende colpi, capite? Normale, è sempre un baracchino. Nonostante il baracchino dichiarato il più grande al mondo, ma è sempre per me un baracchino, rimane, quindi. Però ho visto che questo abbinamento funziona, va bene. Lo facciamo andare Gianni, lo facciamo andare, gappa. Bene, già fa tanto il suo, dai. È stato concepito per quello che doveva essere, fa egregiamente il suo lavoro, come ti sei easy. Bene, non ho nessuna intenzione di... No, come si dice, di mettermi in fila per un eventuale, no, ho fatto solo una considerazione, ma già da tempo fa ho visto quella radio ed è un bellissimo apparecchio elettronico, bello, poi mi piace molto, molto come esteticamente si presenta, è veramente, veramente molto bello, molto bello. Cioè, ha un impatto scenico veramente molto molto bello, cioè semplice però da effetto, dai. No Gianni, guarda che stavo scherzando, ci mancherebbe, se decide di darlo a te lo prenditelo tu, non ci sopra. È un peccato tenerle ferme, è quello che dico, quelle radio vanno fatte camminare ogni tanto, sono a valvole, sono magari ti crea qualche problemino, ed è un peccato lasciarle ferme, è solo quello. Però c'è una modulazione, secondo me non ce n'è per nessuno, è una radio spettacolare, come estetica non ve n'è, poi come modulazione è eccellente. C'era Riccardino, avanti Riccardino. Claudio, ma in ricezione è bene la radio? Una cannonata, Roberto, una cannonata. A cosa l'ascoltavi? Riuscivi a tirarlo fuori a Sandro Conas? Sì, alla grande, è molto sensibile. Perché molte volte sono... Oh vabbè, che a valvole è sicuramente meglio dei transistor. Perché, vedi, quello che c'ho io, il Batch e l'altro, il Ruiz, sono un po' rumorosi come apparati. Con la valvole sicuramente è più selettivo. Sì, selettivissimo, va bene. Cosa hai detto, Riccardo? Volevo dire, si posta, lo fate la tua parte, ne parliamo, non c'è problema. Cacca, la testa era pure dai busto, bello. E poi è una cosa, sembra un amplificatore audio, non un amplificatore, cioè non un baracchino, sembra uno di quegli amplificatori, non so se li conosci tu, Gianni Ubrofetta, gli audio research, li conosci gli amplificatori valvolari americani? Sì, ho capito, no, ma infatti mi riferivo a quello, praticamente ha un'estetica molto bella, semplice, che mi piace, dai. Sia è allineata più o meno ai vecchi apparati hi-fi di una volta, dai, più o meno lo stile era quello. Ossia o alluminio o cromo lucidato, spazzolato, comunque dai, la come si dice, la moda dell'epoca era quella, dai, molto bello. Come dicono tutti cromati, attenzione, non è plastica. Alluminio satinato, ed è una beta perché è il doppio del 440, il doppio, è due volte del 940, se tu metti due 940 uno sopra l'altro fanno l'altezza, ma la larghezza non la fanno, la profondità sì, ma la larghezza no. No, è bello, poi mi piace che c'ha quegli strumentoni grandi, manopoloni, proprio una radio senza risparmio, proprio bella, in assoluto, non perché c'era Claudio, perché anche prima di averla Claudio l'avevo vista, ho detto questo è per me il più bello baracchino che esiste, parliamo di questi vintage. Ecco. Ciao Roberto, ciao Claudio, ciao anche a tutti. Sto provando una antenna autocostruita qua dentro casa con 3 watt. Attenzione, c'è un ragionamento scritto in Nesco, Santiago 7 Radio 5, c'è in compagnia mia di Claudio, di Antonio Bombolo, Riccardino, Marco Condor, Gianni Rubroffetta, c'era Luca e poi non so se ci siano altri. Avanti a chi tocca, vai Claudio. Sì, ciao Fra. Guarda, anche io qua sul DAC ti ascolto segnale un po' più basso, a 7 non ci arrivi, però Fra... stai andando e peggiorando, cazzo, mi arrivavi più di 9, quasi 9 più 10, adesso se sei Santiago 6, Santiago 7, to. No, sto usando quella la racca 68, ma sono a casa, oggi non sono scelto. No, stavo provando questa antenna autocostruita, una macchina, però c'è un dentro casa, capito? E volevo provare appunto come sta andando con 3 watt. Se dentro casa stai andando benino. Vediamo Luca se ti sente. Luca, lo senti a Fran? Sì, a me arriva 9, ma c'è un'alternata. Boh, non lo so, qua arrivi comunque Fra, ti sento, ti sento, non forte ma comunque riesco a sentirti. Vabbè, riprendi Antonio Bombo, lo fai girare, vai. Si è abbassata ancora. Ti sei abbassato Fra un po'. Franco, qua da me, ciao, buonasera, ben entrato, qua da me Santiago 7 Radio 4. Allora, questo migliorato, allora raggiungo, ma ci sto arrivando piano piano, Sierra. Che è successo? Mi stanno rompendo le palle. Piano piano si sto arrivando. Guarda adesso, 1, 2, 3, c'è per PL mollato. Sei più forte adesso anche di radio, dai. Va bene così. Sì, diciamo abbastanza bene, dai, non sei 9, sei 7, radio quasi 5. Poco fa però ti hai abbassato a 6 qualche passaggio. Già va bene. Vabbè, sono dei piccoli da E anche adesso però c'hai dei bassi, ti abbassi di colpo, da 7 a 6 scende, non capisco come mai. 7 e 6. Adesso sei 7 di nuovo, muovi, guarda il PL che non ci avrei qualche problema sul PL dell'antenna. Ma scelto che la sta usando interna questa antenna, boh. Ma dice muove va il capo e non era assetto bene, boh, perché 7 e poi di colpo sì. Boh, non lo so. Però sta uscendo un bel basso, vai. A me mi arriva basso. C'è stato un break, ok, avanti. Non lo so, che sto break. Ok, chi c'è? Luca, ci sei ancora? C'era Riccardo, vai Riccardo, riprenditi tu il mic e poi fai girare per Antonio, per coso, come si chiama? Per Gianni Rubroffetti. Sì, l'ho sentito anche io, un break, un fischio poco fa, basso basso, a mezzo al QRM. Niente, l'ultimo passaggio che ha fatto Franco, con lo PL stretto qua, è salito a 9, dai. E anche la radio ha migliorato. Quindi, evidentemente, ma sicuramente magari ha qualcos'altro da risolvere. Cosa volevo dire? Per Claudio, come mi senti tu, Claudio, con il DAC? Benissimo, alla grande, stesso segnale e stessa radio. No, c'è una bella ricezione, dai. Poi gli ho messo l'altoparlante esterno perché il suo è un po' vecchiotto, capito? A volte se sollevo il volume gracchia, quindi gli ho messo l'altoparlantino esterno e mi sento benissimo. Bene, Riccardino adesso lo sto copiando un po' più basso, sta alzando un po' il QRM, quindi diciamo che l'ultimo passaggio che ha fatto faccio un po' difficoltà ad ascoltarlo, quindi niente, bene che si sappia. Non so, Marco è Fornelli, quindi avanti, Robè. Aspetta, che non era urgente, no, tu hai detto un bassino, qua levava 9 il break, attenzione chi voleva entrare, avanti su 10. Scusate, ma Lupo Grigio è più entrato? L'ho sentito l'altro giorno di sfuggita, chiedi a Claudio che forse è più presente di me, avanti. Io l'ho sentito oggi, ma arrivava talmente basso di radio che gliel'ho anche detto, non riuscivo a capire un accidente. Il segnale era 5-6, ma molto basso di radio, non so se abbia fatto. Se non si mette a posto, purtroppo. Se vuoi parlare ti devi far sentire. Già. Natalina, allora già ci sei anche tu. Un attimo, stavo chiamando a Luca. E non ci ha risposto Natalina. Lu, mica ti vuole Natalina. Ehi, dimmi. Dimmi Natalina. Mi dà un telefono. Guardare il telefono. Stai parlando al telefono? Guardare il telefono su WhatsApp. Ah, su WhatsApp, aspetta. Grazie. Se no Robè Natalino, Natalino arriva a 9 più 20, con questa radio così bassa, cazzo, non li boccio la vita. È un baracchino, cazzo, che non riesco a capire. Non si può modificare, non accetta microfoni amplificati, è un casino. Cazzo, come segnale arriva a 9 più 20. Io l'ho visto Natalino. Aspetta, ma se gli volevo regalare il 3009 non ha voluto. Domani. Ma è bastardo. Lasciatelo stare a Natalino, per favore, io non posso la serie. 3009, usalo tu, così restano a te. No, ma dico, il baracchino che ha, che va bene, perché va, cazzo, c'ha un segnalone qua, 9 più 20, nonostante l'antenna sia bassa, ma non c'ha radio, cazzo. Se lui recupera la radio, è allucinante, cioè ha un segnale come tutti, ma è la radio che è bassa. Ecco perché a volte succede che ci sovramoduliamo, eccetera. Non c'ha radio, e ci ha provato in tutte le maniere a mettergli un microfono amplificato, ma non lo riceve, cazzo. Io ho provato anche le meno banda 3, non vi so col viricito, alla fine si è discusso tutta un'ora, a una base, e io i microfoni li so piattare, in 5 minuti li piatto qualsiasi microfono, quello lì è un macello. Perché io c'avevo addirittura lo spezzone del Kimbus proprio. Nulla, non c'è niente da fare. Perché addirittura lo spinotto del Kimbus ne ha uno di saldato, cioè no, non è saldato nessun filo, perché il Kimbus non ha ricezione. Beh, ho trovato la ricezione io, la portante, ma niente radio. Ma che baracchino è, Natalia? Non ho capito io. No, gatto, questo qui è ZX40. Pro. Polmar. Non lo conosco io, ma non ti cerchi un Alan 48, ma ho gatto, però almeno Alan 48 esce. Perché sai che anche qua è 9.20 Natalino, però strano, come ha detto Claudio, la voce è bassa bassa. Ma se... microfono, ci vuole microfono. L'ho venuta da là, ha bisogno pure alimentata, che se no non funziona. Perché Robè, la radio, quando togli il microfono non c'è ricezione, mentre se lui usa, per esempio, perché le connessioni sono uguali, ma se usa il microfono del 440, per esempio, al 440 che senza microfono funziona lo stesso in ricezione, è un casino, non è che non lo so fare, è un casino, bisogna capire com'è quella radio. Oh, ma infatti ha ragione Coso, Roberto, ma avrei preso un Alan 48 a norma c'è, di ultima generazione, col connettore a 4, stavi un botto un MB più 5, un MB più 4, a posto. Che mi dispiace, Natalino era uno di quelli quando era la trattazione che usciva una meraviglia, C'è anche la capsula del MC43, figurati, però non ci sta qua. Poi Natalino vuole un apparato con le bande laterali. Già c'è il 3009, Claudio, questo è il 3009 omologato, cioè 4 watt AM, FM, 12 SSB, E 40 canali, boh. Dalla lattarina allora. Io glielo ho detto, l'ho implorato di accettarlo, non ne ha voluto. Vai, che non è vero, non ci crede, reclami, c'è anche mia moglie qua, testimone, non me ne ha voluto venire, per nessun soldi. Ma se lo stava buttando, non sapeva chi darla, va, se li sente Natalia. Non c'è, vieni qua un attimo. Aspetta, ti faccio parlare con mia moglie. Ma me ne voleva dare stamattina quando l'ho telefonato di apparecchio. Dai, si scherza, no. Ha chiesto se lo vendevo, ma io non. Cioè, rimango senza io poi. L'altro, vabbè, ne voglio due, forse anche tre. Guarda, gliel'avrei dato a Natalino il 48 che c'è, ma non è a norma c'è, poi torna a passare casini, capito? Non c'è la targhetta dietro a norma c'è, c'è l'omologazione e basta, quindi se non gliel'avrei dato. Gliel'avrei dato ad usarlo, sia quello che le MB più 5, ma non voglio che passi così. Bisogna Natali vendere quello e comprarne un altro che sia un po' più semplice, capito? Già lo so. Oh Marco, oi. Ma il 3009 c'ha 40 canali, no? Questi a norma CE sì, questa è produzione 2015, norma CE 40 canali, AM FM 4 watt, SSB 12, ma non li dà nemmeno, e basta, tutto qui. Sì, ma come c'è questo, aspetta, come c'ha A, D, B, A, C, quelle non sono le bande? Allora, quelle sono le bande, se lo vuoi disomologare. C'è un cappuccetto che conduce, lo metti tra il pin 2 e 3, fatta la modifica. Cioè lo togli con le pinzette, lo sposti e diventa 2,40, capito? Poi puoi aumentare la modulazione, puoi aumentare i watt, tutto puoi fare. Comunque c'è 163 euro più 12,99 euro di spedizione, praticamente ti viene 165, 166, 169 euro, 170 euro, da. No, di più, 180 euro. Mandami il link. Ora te lo mando. Come me lo mandi? Su WhatsApp. Adesso lo devo ricercare di nuovo, aspetta. Comunque, se vai alla GBC, cosa, Natalì, c'aveva l'8001 della Midland, ce l'aveva sempre, non so se ce l'ha venduto, perché, come si chiama? Adesso mi viene il nome di quello della GBC, di Tonino, molte cose ce le ha ferme da lì da anni, ma gli dicevo, tanto ne vuoi, se lo conosci bene ci vai tu, se no ti porto io e ci facciamo fare il prezzo. L'8001 è un bellissimo baracchino, omologato. E c'è un casotto di canali pure, se vuoi togliere l'omologazione. Ma tempo che caro roba, mi ha fatto fare la 4860 euro, aiuto. Sì, no, allora Claudio, il discorso è quello, siccome sono cose che lui non sta vendendo, io ho preso un ricevitore satellitare che costava una cifra spaventosa, quando mi ha detto il prezzo, ha detto quando mi fa il prezzo, ha fatto il prezzo, se lui mi avesse detto il doppio di quello che l'ho pagato, te l'avrei comprato, perché tanto se ne va di nuda, chi è che va a comprare un baracchino adesso ai giorni d'oggi? Se ce l'ha ancora, ce l'ha l'8001 lui, ed è un bellissimo baracchino, è l'evoluzione della LAN 48 col frequenzimento e tutto, ma si può parlare, se vi interessa glielo chiedo se ce l'ha ancora e ci facciamo fare il prezzo, tanto lui non ne tiene per tenerli buttati di lì, dice, anche se c'è a me, quello che me l'ha dato a me l'ha pagato, me l'ha venduto di meno di quanto l'ha pagato lui, per dire. Cos'è? Avanti, chi sei? Sì, chi sei? Franco. Ma chi sei, Fabio? Scusa, aspettate, forse vi avete parlato. Chi sei, Fabio? Ripeti. Alberto. Alberto. Sì, Alberto si chiama, non si ha detto. Alberto, dove sei modulato? No, già ti ascolto bene, 9 più 10 qua. C'è un po' di alternata, forse c'hai l'alimentatore un po' che sta andando un po' di alternata. Ma da che zona stiamo durando? Lascia se da che zona, perché a me mi arriva 8. Se a te ti arriva 9 più 10 vuol dire che è nella zona tua. Ah, ecco, per quello Qua arrivi, ma arrivi più basso di Roberto. Roberto, ciao Alberto, comunque buonasera. Beh, ascoltato per la prima volta. Cazzo, tu coronavirus non effendi a Pizzo. Non lo so, adesso poi come finisce tutto non ci sarà più nessuno, come compreso, perché poi sarà il periodo del mare e tutti ci andiamo al mare. Però diciamo è una bella cosa perché ci teniamo impegnati in casa la sera quando non hai niente da fare, quando si va a lavoro, se no sarei stato buttato facendo varie altre cose meno interessanti. Ok, facciamo girare a tutti che c'è in parcheggio, c'è Rubroffetta prima, se sente ad Alberto, e poi Riccardino Strobo e anche Antonio giù dalla Teroccia. Ehi, buonasera, ciao Alberto, Santiago 8 e Radio 3, ti sento un po' basso di radio, poi vabbè sta salendo anche un po' di QRM, quindi comunque buonasera, ben ascoltato qua, Gianni dal centro storico basso, zona stazione. Io lo sento meglio in FM che non in AM. Ma infatti adesso è tutto distorto, non so perché. Mi senti bene di radio tu, Marco? Ah, io, tu a me, benissimo, benissimo. Tu a me, io a te, mi senti bene? Sì, sì, sì, benissimo, Cla, bene, perfetto. Ok, va bene. Watti, watti, 10 watt. Va bene. Alberto, stai arrivando male di radio, segnale ti ripete 8. Non so. Va bene. Chi c'era poi? Luca, riprendi. Sì, Ami, stavo guardando questo apparecchio bello, meno costoso, bello, completo di staff, vabbè, è nuovo, sì, marchiato c'è, 40 canali, bellino, sì, sa che penseriamo lo posso. Bello, aiutami Marco, quello che ti ho detto io che ci avevo, che c'è Mario Babbo Natale, come si chiama quello? Il 7000DX è quello lì, no? Marco? Aspetta che sta rispondendo a me un attimo. Dove c'è Mario Babbo Natale? Non me lo vuole dare, cazzo, non lo vuole vendere. Gli ho offerto una barca di soldi. Dice sì, quello c'ha 50 watt. 50 watt, 6 bande. Ma bello, bello, bello, bello. 7000DX. Mi pare che sia. Così è Marco. Aspetta. Marco, ci sei? No, baracchino, c'è un dissipatore dietro, allucinante, bello, bello, grande, forse grande quanto il Magnum, quanto l'S9, ma bello massiccio, il 7000DX, è il più grande della categoria del Superstar, io l'ho usato un sacco di volte, me l'ha prestato Mario, però a vendere non lo vuole vendere, cazzo, ce l'ha a casa, buttato lì. Anche perché lui, vabbè, non so se sta viaggiando ancora, forse se l'aveva rimesso in camion, non so. Sono rientrato lì. Non hai fatto mai dire mai. Sì, vabbè, aspetta se c'è Marco, devo chiedere un'informazione. Marco! Cazzo, ne ha tanti pari, riprendi roba. Ehi, cosa stavo dicendo? C'era anche quello Alberto, c'è ancora rimasto, c'è Gianni Rubroffetta, Antonio, Riccardo, Luca, tu e poi chi c'è? È Marco. Avanti il profeta. Chi mi ha chiamato avanti? Io Marco, quello che stavamo parlando una volta, qual è? Il 7000DX, quello che avevo io, che usavo io, 7000DX del Superstar, quello lì è. Ah, quello performante, sì, mi pare sia proprio il 7000DX. Guarda, come forma assomiglia al Polmar Oregon e al Formac 777, però ha molta roba in più, soprattutto a livelli di potenza. Ma Marco, questo qua stai usando adesso? Sì, questo è il 3009 col trimmer della M lasciato nudo e crudo, cioè non è a manetta, se lo metto a manetta è molto molto più forte. Microfono di serie, poi lui ti faccio vedere come è fatta la targhetta dell'omologazione dietro, cioè così la vedi bene. Ma il bip si può levare, sì? No, no, non hai il selettore. Se lo vuoi levare devi agire sul... devi metterci mano, devi manometterlo. Non si può levare il bip, una mezza cagata l'ho fatta. Sì, infatti, guarda, proprio il bip l'avrei messa alla levetta. Comunque, se uno è bravo a farlo, si modifica la NL o il canale 9 e si modifica, si fa il selettore, mi già compreso. Via. Comunque, c'è una meraviglia, Marco, con quell'apparato. Che differenza c'è tra me e lui, io con una radio di 40 anni e lui con una radio 2015? Che differenza c'è? Microfono normale, eh? Allora, la radio tua è una radio più naturale, nel senso, classico modulazione di valvole, molto più presente. Più, però la sua è pulita, niente da dire. Come fai il riconforto tra valvola e transistor? La radio, la voce sulla valvola è molto più naturale, più corposa, le tonalità le senti meglio, cioè come che ti sento qua vicino al pallone polvere. Marco io di natura non lo conosco dal vivo, però la radio è bella chiara, pulita come piace a me. Ma sottofondo non ce n'è, cioè pulita la modulazione, no? La tua è perfetta, la tua è stamattina eccellente, niente da dire. Questa radio rispetto all'altro giorno quando hai attaccato quell'altro tipo di apparato, secondo me era troppo forte, era esagerata. Questa è forte però pulita, chiara, non è distorta, come piacciono a me le radio. Ma infatti io quella lì l'ho tolta, è sempre qua, ho staccato il microfono perché quella parte siccome deve entrare nel menu, parte dal 25% come regolazione, fa 25, 50, 75 e poi 100, capito? Va a passi di 25, se io vado sotto i 25 non esce di radio, capito? È per quello che è troppo forte e quindi vabbè, non si può usare perché è troppo forte, però è una bella modulazione. E allora l'ho tolto, il MC80 l'ho rimesso, anzi non l'ho rimesso niente, l'ho attaccato al 780, perché prima sul 780 c'era l'MC50, adesso l'MC50 l'ho passato al DAC e l'80 l'ho messo al 780, l'MC80 l'ho messo al TS780 della Kenwood, capito? Quello base VU. Ho capito, ok, facciamo riprendere chi c'era, Alberto, quello nuovo entrato, avanti Alberto, non c'è più, poi c'era uno fischiando sotto, non so chi era, Antonio riprendita da tu e poi farai girare per Riccardo e per tu Broffetta e Natalino se c'è ancora. No, questa è, allora, te lo dico subito, in scala 20, sì, sta dando intorno ai 15 watt, 13 watt, in banda laterale ne dà un pochettino di più, capito? In banda laterale ne dà un pochino di più. Sembra un HF con 440, un po' meno potente, come anche lo scatto che... E quello è l'MC50, va un casino, va, diga. Fa un sacco di casino, fa. È un microfono vintage, Robert, quello, non è che sia un microfono. MC50 c'ha la sua storia. È nato appunto io l'ho comprato col 780, col TS780 della Kenwood, che è trio praticamente. E anche quello è trio. Però fa il suo lavoro, è nuovo di pacca, ma nuovo davvero, basamento nero e tutte cose, capito? Tutto bello cromato e originale, colore suo originale. Una domanda a proposito, che non mi ricordo, l'MC90 cosa c'ha di diverso dagli altri microfono classico? Guarda, l'ho visto in fotografia, leggendo le caratteristiche mi sembra poco niente, ma mi hanno detto che è un microfono che costa una barca di soldi e che non è andato molto, qualche radioamatore l'ho sentito con l'MC90, però non... Anche lui si lamentava del fatto che la modulazione è un po' così, per il prezzo che ha evidentemente non è andato molto. Io da quando fu, da quando è uscito l'MC60, io ho usato sempre l'MC60. Sì, no, assolutamente, è un ottimo microfono e costa ancora tanto, se lo vuoi pagare sempre un sacco di soldi, è un microfono molto quotato e lo usano anche su apparati moderni, ho visto radioamatori su apparati grossi, ultima generazione, utilizzano anche l'MC60 ancora. L'MC60, l'MC50 usano molto in banda laterale perché spinge tantissimo, ha una bellissima modulazione, l'80, l'85, usano anche altri tipi di microfoni da studio eccetera, però ti ripeto, il 60 è il 60, io ce li ho tutti praticamente i microfoni Kenwood dove funzionano bene. Fai girare tu per Riccardo, io non lo sento Riccardo, Roberto, fai girare tu. Vai Riccardo, ci sei ancora? Ok, no, stavo utilizzando un portatilino con l'alimentatore, ma ovviamente quelli economici, quelli da coso, che utilizzi tipo cellulare, lo facevo anche a me quel problema sul portatilino, sull'handicom, utilizzavo un alimentatore così, non va bene, devi mettere gli alimentatori un pochettino più robusti, isolati meglio. Ok, vediamo un pochettino che è rimasto qua. Natalia, ci sei ancora? No, ma però sto cercando qualche capsula, qualche cosa da mettere qua, perché non è possibile modulare così. Brecco? Avanti Brecco. Ciao Roberto, ciao Claudio, scusate se mi guarda un po' adesso se ha migliorato qualcosa. Di radio sei più forte, il segnale è 7 sempre. Vabbè, sì, mi interessa per la radio se era buona. Io sento alternata. Io sento alternata. Boh, mi c'è portante, vediamo un po' se la sentono loro. Forse magari, essendo più vicino a me, prova, tieni portante fra. Tieni portante. Sentite alternata? Io intendo un bel casino, un fruscio, di tutto si porta appresso. Che figo. Ma dicevo che è un freezer l'antenna. Ah, Franco. Ah, la dico che è cazzo, una scienza, sì. Se mi ludi me che l'antenna dentro casa non funziona, niente. Però vabbè, all'epoca la trovo io e voi avete l'antenna della cabessuria. Il dipolo, credo mi hanno fatto mettere il dipolo alla finestra, l'avevo invertita e io ho buttato che sta quello di scimmia. Ma, Ofra, mi fai adirare, c'hai quel foro, quella piastra dove stendi dietro, no, apri la finestra, ti ho detto l'antenna della macchina, mettila lì, come che la stai piazzando nella cappotta? Sto modulavo con Alghero io, con quell'antenna, da quella posizione, da casa tua, in VHF, boh, io non riesco a capirti, cosa la tieni dentro casa? Mettila lì, basetta, dietro, so, cioè attaccala come che la stai attaccando la macchina. No, siccome stavo disturbando questa signora di sotto, per quello che l'ho portata. Cosa ha detto Lu? Stavo disturbando questa di sotto, capito? Ma come fa a disturbare con un baracchino a 4 watt? Io non riesco a capire. Perché di sotto sono, gli altri no, a questa la ma cioè disturbi la televisione, cosa disturbi? Non riesco a capire, vuol dire che i problemi ce li hai lei, non ce li hai tu, che discorso è un casino lì Robè, lì è un casino Robè, è un casino, vanno le antenne, ognuno va la gioia, ognuno per i fatti suoi, i cavi, i pendoloni, è un casino anche lì, peggio di casa di Natalino. A meno che non sia con l'antennino, quei televisori che hanno l'antennino a sollevare telescopico dentro, o le antenne che non hanno sistema delle antenne ci mettono l'antennino dentro, ma è possibile, cioè un apparato omologato dentro con un'antennina piccolina, e cosa puoi disturbare? Non lo so, ma disturbava anche con la Mantova, poi è riuscito mico Natalino a sistemare tutto, ma lui lì disturbava lo stesso anche con la Mantova, non so il perché. Vai Gian. Eia, vabbè, insomma, grazie a Dio, siamo un po' impegnati, chi per una cosa che per l'altra, siamo un po' impegnati a rimediare a certe cose, chi con microfoni, chi con antenne, chi con altri aggeggi, già non mancano le cose da fare, dai. Oh yeah. Io vabbè, per il momento ho messo in stand by la storia dell'antenna perché devo sistemarmi una cosa col computer portatile, quindi ho messo in stand by la cosa dell'antenna, adesso vediamo un po'. E niente, questo per quanto mi riguarda. Poi vediamo un po', adesso mi sistemo il portatile e poi facciamo il resto. Comunque Alberto col portatile arrivava qua a 8 di segnale, ma la radio, l'ultimo passaggio che ha fatto era veramente incomprensibile, non so se è ancora in frequenza. Io non lo sento, dai, io vi lascio per il momento che vado a sistemarmi il cane, se ci siete riprendo dopo, ok? Un saluto circolare a tutti, vai Robert, riprendi tu. Sì, dai, mi hai sentito, dai. E buona carica, anche io tra poco sto aspettando che mi chiamino e vado a mangiare, dai, buon tutto, ci sentiamo eventualmente dopo. Vai, come si chiama? Luca, poi Natalino che farà girare per gli altri. Ma è Natalino. E ci è rimasto? Ci abbiamo rilanciato per salutare a Claudio, ogni tanto scompare Luca. E ha passato l'audio perché stavo mandando un coso, da un messaggio vocale. Ciao Claudio, a dopo, gabba, gabba. Vai Gian. Ehi, a Claudio, a dopo, c'è Marco in posteggio, mi pare, Riccardino. Vai Marco. Ehi, stavo volando internet per questi 3.900, sì, lo vendono in molti rispetto a un periodo. C'è uno che in Italia lo vende nuovo, però pezzo unico, magari è il personale, 287 euro, questi sono scemi. Poi ce l'hanno dalla Spagna soprattutto e dall'Inghilterra. E questo è nudo e crudo, nudo e crudo è il mic originale pure, come esce dalla fabbrica, capo. Poi i componenti sono classici, non so se mi spiego, Luca. Luca è già andato, vai Gianni. Ehi, vabbè, Luca anda e torna. Riccardino, ci sei, avanti. Marco, una curiosità. Dimmi tutto. Ma come mai tu c'hai questi cambiamenti di segnale? Da 9.30 a 9.40? Poco fa le 9.40, adesso sei 9.30. Hai visto che si scoprono gli altarini? No, siccome stavo provando se funzionava correttamente, io mi ero dimenticato questo acceso, mi abbozza. Me ne sono accorto poc'anzi e l'ho staccato. Non mi passa niente di nascosto qua, hai compreso che questa è stazione di controllo, numero 2, numero 1 è Claudio, io sono numero 2. Ma adesso c'è il declino, piano piano il Claudio diventa tutto per il controllo. No, io adesso per dire, quando faccio senza parlare, ho tutti memorizzati i segnali, so chi fa cosa, capri 2, questo è Marco, questo è, vabbè Claudio, non c'è da sbagliare, Claudio e Pomponio arriva una bomba, più cosa, come si chiama, Giovanni lo stesso arriva a 9.50 quando c'ha l'HF, se no arriva 9.45, tutti gli altri, Luca so che col segnale lì è il più forte di tutti, di quelli lontani Luca è il più forte di tutti, poi c'è Riccardino, c'è tutto l'ordine, so tutto, poi c'è Gianni Rubrofetta, so già quasi il segnale, senza parlare, tu al 90% c'è Zecchi. Ehi, Robè, una volta avevo addirittura un quello della ZG, un riduttore di segnale. A seconda di che apparato usavo, quindi già abbassando l'apparato, riducendo oppure attaccando lineare e pilotando, insomma potevo variare quasi da 100 mW a 100 W. Già ne ho fatti fessi pochi. Lascia aperto. Luca, una volta ho schiacciato senza parlare, ero con degli amici, li stavo facendo vedere degli amici la stazione, sono venuti a casa, ho schiacciato, sì Robè, senza manco di una balaura. Gianni Rubrofetta, una cosa, ci sei ancora? Cappa! Ti voglio chiedere una cosa, se mi puoi aiutare. Tu i 1.200 ce li hai sempre. Positivo. I coperchi tu li utilizzi o no? Io i coperchi suoi in plastica non li ho mai avuti. E i piatti sono dentro i fly case. Quello che ti voglio dire, la cerniera del coso, non è che ce l'hai per sbaglio due cerniere? No, no, negativo, i piatti erano sprovvisti. No, la parte attaccata dietro al coso sto parlando, ovvio. No, non mi ricordo, guarda, uno proprio non ce l'aveva, l'altro non mi ricordo. Adesso è passato un po' di tempo. Comunque, non ce li ho. I supporti dei coperchi originali, no, da quando li ho restaurati, non sono stati mai messi. Non parlo dei coperchi dietro, dove attacca, l'hai visto che ha incastro, la base per infilare la cerniera. Io le cerniere ce l'ho, però mi manca di uno, mi manca l'incastro di dietro. No, no, ti ho risposto, non ce li ho i supporti, quelli attaccati al piatto, mi mancano. Ma li hai liberati tu o che cosa? Allora, in uno non c'erano già, in uno il piatto mi è stato venduto senza, l'altro sinceramente non me lo ricordo, sono passati un po' di anni. Comunque, se ti dovesse capitare, mettimeli a fare. Eia, sì, vabbè, adesso non ce li ho qua a casa. Non mi ricordo, è passato un po' di tempo. La paga naturalmente, non voglio niente al regalo. Ehi, già ci siamo capiti. No, ma è proprio... Non mi ricordo, uno era proprio senza, uno proprio mancava completamente. L'altro non mi ricordo. Quindi non ti voglio dire balle. Ah, se forse c'era qualcuno sotto che stava parlando. Avanti, chi era? Vai Riccardino, di tu. C'è propagazione, comunque sta iniziando a salire. Ok, Natalino, ci sei? Dai, ma correre per rotta, che ha portato una roba in coglione. Avete parlato in due, comunque Natalino è cosa? Di segnale di più fortissimo Natalino, però di radio usciva. Cosa Antonio? Aspetta, c'è qualcuno sotto che forse sta chiamando. Avanti, chi chiama? Chi sei? Non capisco quello che stai dicendo, è molto basso. Qualcuno l'ha ascoltato? Se non è Eugenio. Eugenio, tu sì? Sì, in mezzo al QRM, ti sento basso di radio e non si capisce quello che dici. Ok, vediamo un po' se Luca l'ha ascoltato. Vai Luca. Io c'ho il QRM a 5, no a 5, a 4, e lui è proprio basso così. Certi passaggi si capisce, però mi sembrava Eugenio, ma non sono sicuro. Questa propagazione manda laterale, non ci interessa. Adesso iniziano gli spagnoli a entrare. Ok, facciamo un riepilogo. Marco, tu l'hai ascoltato questo lontano? No, zero totale, Robè. Magari venisse la propagazione di quella domenica fa storica, col segnalone proprio sul rosso. Sì, già lo so. Quella era bella perché non era troppo larga, era un territorio limitato, per cui facevamo dei QSO come li facciamo qua a Sassa, sembravamo noi in città. Infatti non ci volevo credere quando quello mi ha detto ero da Lecce, da Taranto, a Bari, che strano che arrivino tutti così, tutti alti e puliti, senza decadimenti, senza fading di cose, decadimento di segnali. Kappa. Dimmi Riccardo. Eia. Io non ho mai chiesto a Riccardo come arrivo lì con 3 watt. Mi ascolti Riccardo? Sì, qua il tuo segnale è 8 pieno, tra 8 e 8 e mezzo diciamo, dai. Marco, mi serve un 3009. Gianni, il doppio room, ti serve un 3009? Sì, è urgente. Ma urgente quanto? Io non ne sto vendendomi, anche, gli ho detto anche a... ne ho parlato con un'altra persona oggi. Non li do perché non fa, perché tanto poi me lo devo ricomprare nuovo, però ci sono dalla Spagna mi varie tariffe pure, prezzi buoni e prezzi onesti. Io ti dico solo una cosa, TRX. Aspetta che tendo l'orecchio, dimmi già, TRX. No, ho detto una cosa, RX. RX. Cos'è? Boh. Sono allo scuro. Lima. LX. Ah, quello che morsica. E inietta il veleno. E vabbè già, però, cioè, passerei, non voglio monopolizzare, passerei da un apparecchio con banda laterale a uno solo MFM. E a quel punto, non per quanto bello sia, perché... vabbè dai, non voglio, chi c'è rimasto qua? Nessuno, né il profeta forse. Io sono qua, ciao Gianni, buonasera. Io sono qua, ci sei tu, Riccardino, Roberto non so se è andato, Natalino sta smanettando con i microfoni, Claudio si è spostato, Antonio, se c'è Antonio, avanti Antonio. Dai, io sono tutti cordialmente, sono all'ascolto. Gianni, comunque a parte gli scherzi, ma tu davvero lo stai cercando? Perché ripeto, cioè lo vendono in tanti, è nuovo poi, senza, capito, nuovo vuol dire nuovo. Oh, mi sentite? Scusate un attimo, io vado, dai, ci sentiamo tra poco, dai, ciao ciao. Ciao Robè, dai, ci sentiamo alle prossime. Capito già, quando vuoi, cioè ti ritrovi, nuovi poi, nuovi. Una volta che sai che è nuovo e sai solo tu cosa hai toccato al limite. Roberto, scusate, Roberto, mandamela tu la legge dove mi dice il contrario di quello che ti ho mandato. Copiato Roberto da Giulio? Gianni, guarda il telefonino, lo su WhatsApp. Sì, lo sto leggendo, Giulio. E appunto, allora qualcuno mi deve mandare la vera verità e mi deve dimostrare che effettivamente non è più come prima, ma che questo discorso che abbiamo fatto appunto sia chiarito una volta per tutti. A te la parola, Roberto Quadrato. Ha chiuso. E allora gira da quando c'è lui, dai, non c'è problema. Non lo so di cosa si stesse trattando, forse normative del baracchino, non lo so. E la mando subito Marco. Eia, aspetta, cosa mi hanno mandato? Mattel tira la leva. Cesso. Scusate, roba di WhatsApp. Ciao Antonio, ciao, buona serata, buon tutto, dai, sentiamo. Ah, ecco di cosa si parla. Bisognerebbe trovare gli estremi di legge. Appunto, perché ne hanno parlato ma nessuno me l'ha dimostrato. E anche sui forum, Giulio, tutti dicono tutto sul forum, ma quando li chiedi gli estremi di legge, anche perché non è facile trovarli, anche su internet è tutta una cozzaglia di roba vera e non vera. Sì, ma se dicono che su una gazzetta ufficiale l'hanno letto, che me lo dimostrino, tutto basta, non è che chiedo molto. Comunque oggi in Sardegna 18 contatti, di cui 12 a Sassari, non si esce più da questa storia. No? Che metto un casino, boh, che la gente sta in giro, non mi vedi in giro a me, no, domani esco per andarmene da un'altra abitazione, ma non me ne fate in giro. Luca, l'ho mandato anche a te quell'articolo su WhatsApp, guardalo. Sì, non l'ho visto. Oh, no, te l'ho scritto ancora, l'ho scritto io poco fa per mandarlo a tutti. Chiappa, chiappa. E poi lui non mi avevi risposto per l'antenna, avevi deciso oppure stai ancora decidendo? Forse me ne dico, vediamo un po' cosa farne, tanto cosa me ne vuole, non mi ha fatto niente, non credo che la rimonterò più, mi tengo a quella canna da pesca e non se ne parla più, così almeno sono tranquillo e leggera, facilissima da gestire, nel senso che ce l'ho nel terrazzino, allungo la mano così senza niente, senza bisogno nemmeno di uno sgabello e sta col piede, per dire no, tutto sommato, non so se ne vale la pena metterla dove la prima eccetera eccetera, invece quella che ho, allungo la mano e sta col piede in qualsiasi momento, prendo la chiave, allento due dadi e ed è già smontata. No, chiedevo a Luca. Luca, vabbè, adesso forse non si è allontanato. Là. Dimmi. E ho detto, ma per l'antenna puoi parlare, avevi deciso o stai ancora decidendo? Per l'antenna là devo. Adesso è un casino, cazzo, ma è un casino perché innanzitutto sono a piedi, poi vediamo, non lo so. Per il momento rimane tutto così bloccato. Hai letto Marco? Sì, stavo cercando sul sito del MISE, ho messo sulla parola di ricerca antenne direttive, ma i risultati zero, proprio il sito che dovrebbe fornire tutto il fornibile. Adesso basta cercare banda cittadina, vediamo se hanno inserito qualche novità. Ma quando fa parla addirittura di Gazzetta Ufficiale, quello che l'ho mandato io, per cui dal 2018, perché più recente di così, no, perché si è parlato stasera, si è parlato dal 2007, mi sembra, 2003, e tutte le modifiche successive. E dunque, però io ho mandato una documentazione, che poi, se sia vera o meno, questo naturalmente è opinabile, però questo è del 2018, non credo che facciano questa legge ogni mese. No, le gazzette ufficiali riportano qualche modifica, ma non è che ogni volta cambiano, vediamo qua. Banda, tutto anche qua una bolgia di informazioni, banda ultralarga, questa roba di cellulare, no. È fonte sicura che si può chiedere, telefonare a Cagliari e chiedere a titolo informativo, non credo che per solo per chiedere mandino un controllo, no, per c'è la direttiva. Ma sarà, anche telefonando a Cagliari non ne sono convinto io che ti dia una risposta esatta, nella maniera più assoluta, perché se per quello si potrebbe chiedere anche a Sassari. Basta andare via alle poste di Sassari, stare su al secondo piano e te lo possono dire anche loro. Ma io sono convinto che non ne stanno nemmeno loro. Vediamo un po', antenna direttiva CB. Emetto, parole, ricerca, qualsiasi data dell'ultimo anno, vediamo cosa compare. Normative, vediamo. Mamma mia, sti messaggi di WhatsApp, non ne posso più. Entro io al volo. Ciao Giulio, buonasera, ben sentito. Vabbè, io faccio un paio di minuti di bianco, ok? Ciao Gianni. Ciao Gianni, sentiamo, dai. Giulio. Sì, avanti Fra. Ti posso fare una bassa? Certo. Ciao a tutti. Ciao, chi ha salutato? Marco, mi stai dicendo qualcosa? No, ho detto ciao a chi ha salutato. Vediamo un po', mamma mia. Ci vorrebbero gli estremi della Gazzetta Ufficiale, però io leggo un numero e poi non leggo più niente. Per quel quesito di Giulio. Io leggo Gazzetta Ufficiale, anno, dopo c'è scritto anno 118 e c'è una virgola, che vuol dire? Oh. E che ne sei. Metto il titolo del testo lì, antenne direttive ancora vietate, vediamo già ne esce. Ecco, ho trovato il sito che scrive per quella cosa, presumo, Lazio, Regione Lazio. Allora, passano gli anni, ma le normative restano, in Italia resta ben saldo il divieto dell'utilizzo delle antenne di tipo direttivo per quanto riguarda 27 MHz. Gazzetta Ufficiale anno 118. Ah, hanno sbagliato, sono andate 2018, vabbè, numero, bla bla bla. Scusate, sono autorizzati tutti i tipi di antenne ad eccezione di quelle direttive. E troviamo la sua gazzetta, allora, 2018 numero 226. Ma questa gazzetta sempre parla del 77, Giulio c'è l'ascolto. Vabbè, probabilmente non è cambiato niente, cioè bisogna usare verticale 27, però boh. Io sapevo così, poi. Boh. Ehi Riccardì, qua sì, stavamo leggendo roba di antenne, ma vediamo, si presume che se non è uscita una cosa nuova dovrebbero essere ancora vietate, ma Giulio ha chiuso forse. Hai detto è possibile o impossibile? Sì, esatto. Vediamo, 27 MHz, vediamo se c'è scritto. Guarda, la Gazzetta Ufficiale del 77 diceva che era vietato. A meno che non ci sia stato un controordine, dovrebbe sempre valere, non è decaduta regolamento, la legge, boh, credo. Sono rientrato. Marco, ci sei? Tutti morti? Io sono rientrato adesso. No, stavo chiamando Marco. Non so se si è spostato anche lui. Oh, c'è tutti spariti, Gianni. Andave, andave. Oh, yeah. Vabbè. Sono andati a... a sgranocchiarsi qualcosa sicuramente. Sicuramente. Che dai. E tu non li mangi. E tu non mangi già. No, mi sono mangiato un pezzo di formaggio con una spianatina, giusto per spezzare un po' l'appetito. Adesso non c'ho tanta fame. Era giusto un piccolo langurino, niente di eccezionale. Marco, attenzione, manco il Condor Pasa, sicuramente è ancora la radio accesa, magari sarà da un'altra parte. Oia. Ci sei Marco, ci sei, avanti. Marco Pasa, l'uva Pasa. Il Condor si è passato, dai, vabbè. Allora, per il momento l'antenna deve essere sospeso. Sì, Lu. Devo mettere le stesse dine nel mio portatile e quindi adesso stavo controllando, cioè l'altro funziona, però voglio mettere le SSD come disco fisso e magari l'altro, quello che c'è attualmente dentro, lo metto dentro un cassettino e lo uso come hard disk esterno nel caso mi serva. Era una cosa che dovevo fare già da tempo, adesso me ne sono ricordato, infatti stavo guardando un po' i prezzi e sono indeciso se metterlo da 120 o da 240. Boh, adesso vediamo. Io il mio l'ho pagato una 55 euro da 500 giga. Da 500? Cappa. Perché, vabbè, ho dato uno sguardo su Amazon, stavo guardando quelli a 2,40, stiamo parlando intorno ai 40, 43, 45 euro più o meno, dai, siamo lì, sia i Kingston, i SanDisk e i Crucial. Vabbè, poi ci sono i Samsung, quelli di livello superiore, che iniziano già a costare troppo, dai. Samsung costa un bel... E poi ti installare il sistema, tutto quanto, Marco. Mi ne ho fatto uno ieri, va Gianni. Mi ho fatto uno ieri il computer. E l'ho consegnato stamattina. Io no, vabbè, ma già riesco... certe cose già riesco a farmi anche io. No, vabbè, ci metto un attimo. Per clonare l'altro disco ci vuole poco, dai. Tempo fa avevo formatato tutto, avevo levato un sacco di roba che non mi serviva più e gli avevo installato l'essenziale, per cui clonarlo veramente è veramente una gazzata, cioè faccio abbastanza in fretta, c'è poca roba, dai. Ah, vabbè. Diciamo che quello l'altro lo tieni, lo metti in un case piccolino, quei case che vendono i cinesi, se lo usi come hard disk esterno, come me lo vuoi cambiare, perché è lento. Vabbè, già un computer, un computer già adattato, dai, ha già i suoi anni. Le uniche modifiche che posso fare adesso sono mettergli l'SSD, perché gli avevo già cambiato il processore rispetto all'originale, ma purtroppo non ho, quel tipo di PC, quella scheda madre non supporta processori più potenti. Ho fatto il massimo, ho messo un processore un po' più potente di quello normale, le RAM sono tutte occupate, e l'unica cosa che posso fare per renderlo un pochino più veloce è mettergli l'SSD, capito? Ma perché vecchio vecchio? Del 2008, dai, è un HP del 2008, funziona benissimo, per carità. È del 2008, e niente, dai, volevo mettergli l'SSD già da un po' di tempo, adesso vediamo un po' se metterlo da 128 o da 246. No, non lo voglio mettere troppo grande perché già lo sai, più spazio è, più roba ci metti dentro, non voglio appesantirlo, per cui quello che c'è adesso è da 246, lo voglio mettere più o meno uguale, dai. Ecco, no, io lo passo a 500, quello che c'era prima a 500 lo stesso. No, diciamo che già migliorato, però non è che sia questo granché. Adesso vediamo, sto valutando su un i7 il processore. Ho capito. No, vabbè, per quello che facevo io, cioè io registravo anche il video con la telecamera, cioè già lo sai che fai i video, sono abbastanza pesanti, però riuscivo a reggere, dai.